Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Gioacchin, 2007. Cuore, di Edmondo De Amicis. Introduzione dell'autore. Questo libro è particolarmente dedicato ai ragazzi delle scuole elementari, i quali sono fra i 9 e i 13 anni, e si potrebbe intitolare «Storia d'un anno scolastico», scritta da un alunno di terza d'una scuola municipale d'Italia. Dicendo scritta da un alunno di terza, non voglio dire che l'abbia scritta propriamente lui, tal quale è stampata. Egli notava man mano in un quaderno, come sapeva, quello che aveva visto, sentito, pensato, nella scuola e fuori. E suo padre, in fin d'anno, scrisse queste pagine su quelle note, studiandosi di non alterare il pensiero e di conservare, quanto fosse possibile, le parole del figliuolo, il quale poi, 4 anni dopo, essendo già nel ginnasio, rilesse il manoscritto e v'aggiunse qualcosa di suo, valendosi della memoria ancora fresca delle persone e delle cose. Ora leggete questo libro, ragazzi. Io spero che ne sarete contenti e che vi farà del bene. Fine dell'introduzione.